America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Oggi 20 aprile è l'anniversario di una tragedia ecologica, l'esplosione della piattaforma al largo del Golfo del Messico della British Petroleum. Che avete sentito il rumore delle fiamme che stanno divorando questa piattaforma dove si sta consumando non soltanto un disastro economico ma anche una tragedia umanitaria. 11 morti durante questa esplosione, 17 feriti. L'operazione di evacuazione non ha funzionato bene e poi naturalmente il danno: 4.900.000 barili di petrolio in mare su un'area totale di 180.000 chilometri quadrati, quasi quanto lo stato dell'Oklahoma, il più grande disastro ecologico della storia, pensate 20 volte più grave dell'incidente della Exxon Valdez. Danni alla fauna marina, 6.814 animali uccisi, di cui 6.104 uccelli marini, 609 tartarughe, 100 delfini, altri mammiferi, 2,5 miliardi di dollari in costi stimati per il settore della pesca. I want to update the American people on the status of the BP oil spill, a catastrophe that is causing tremendous hardship in the Gulf Coast, damaging a precious ecosystem, and one that led to the death of 11 workers who lost their lives in the initial explosion. Yesterday, the federal government gave BP approval to move forward with a procedure known as a top kill to try to stop the leak. Avete sentito Barack Obama? Immediatamente è intervenuto nel dibattito, ha definito appunto questa tragedia la più grave tragedia ecologica della storia. In quel momento si sperava che la British Petroleum potesse intervenire e il presidente annunciava di aver autorizzato la possibilità di creare una specie di tappo fatto di fango in grandissima profondità per cercare di ostruire la falla. Molti di voi a questo punto cominceranno a ricordare la dinamica di questo evento, la sofferenza, il fatto che ogni tentativo di arginare questa falla andava poi fallito e questa macchia nera, questa marea nera continuava ad allargarsi fino a minacciare poi le coste della Florida. The time for waiting is over. Again, we're calling the Coast Guard and the federal government to force BP to act responsibly, either begin the work themselves or get out of the way and just give us the money. È la voce di un pescatore che dice: dateci soldi, ci occupiamo noi da soli, basta con la burocrazia. Sono arrivate, forse anche questo lo ricorderete, delle truppe addirittura della British Petroleum che hanno preso il controllo del territorio impedendoci di fare nulla. Grande frustrazione, ci fu poi un accordo, la British Petroleum dopo mille polemiche fu costretta a pagare 20 miliardi di dollari. Facciamo un balzo al giorno d'oggi. Our habitat continues to shrink, and as it does, so too the numbers of oystermen and fishermen of all stripes. They seem to be a dying breed. È la voce di Sam Slavich, che è un coltivatore di ostriche della Louisiana. Le cose in realtà sono migliorate dal punto di vista del danno ecologico. Beh, devo dire, è stato meno importante, meno preoccupante di quello che sembrava un anno fa. Però lui dice che sta soffrendo di un danno di immagine straordinaria. Dice di essere alla quarta generazione nella coltivazione delle ostriche, ma il business si sta restringendo e la conseguenza indiretta da un punto di vista di immagine di quel disastro probabilmente porterà a una chiusura della sua azienda. We relied on them to their word, and we were told every day we'll take care of it, we'll take care of it. Till it comes time to pay and they deny our claims. They agreed to $1,200. A fronte delle lamentele del pescatore che abbiamo ascoltato poco fa, che diceva dateci soldi e ce ne occuperemo noi, questo è Josh, capitano di un peschereccio. Dice: abbiamo fatto affidamento alle parole, alle promesse della BP, ci dicevano ogni giorno ce ne occupiamo noi, non ci hanno pagato e ora respingono le richieste di indennizzo, dei $50,000 di risarcimento chiesti per i danni all'imbarcazione. Forse, se sono fortunato, me ne daranno 12.000. You know, I think that the immediate impact of the spill, though, has hurt a lot of small businesses, particularly in South Alabama, where there are a lot of family-owned businesses, and they really require the tourist season to be healthy. Mm-hmm. They make their nut 3 months out of the year. So when it came to the end of September and or the end of August, and they had not made their 3-month nut, you can only imagine how much pain that created. Rick Matthews, presidente dell'Alabama Coastal Recovery Commission, il quale spiega che l'incidente della British Petroleum alla fine ha colpito soprattutto le piccole attività, soprattutto nel sud dell'Alabama, e parlando del sud dell'Alabama, che è già il profondo sud degli Stati Uniti d'America, immaginiamoci le condizioni di fondo, dove ci sono piccole imprese a conduzione familiare, imprese povere che contano soprattutto sulla stagione turistica. Ebbene, il guadagno si fa soprattutto da giugno a settembre, e a questo punto, se non tornerà quest'estate il turismo come non ci fu l'anno scorso, beh, allora molti saranno costretti alla chiusura. This was supposed to be the most heavily oil covered marshes, and what we see is now a year later we're seeing regeneration, we're seeing the grass, the resiliency. So this says nature's going to win the war. Jim DeLarey, una voce più ottimistica e membro di un'associazione costiera di Barataria Bay nell'Alabama, anche lui dice che è stata la zona sicuramente più colpita dalla marea nera, ma la sua testimonianza è positiva, dice che l'erba alta sta ricrescendo, sicuramente si vede una capacità di ripresa della vegetazione, della fauna, e dice la natura sta vincendo la guerra. E aggiunge, dal punto di vista economico, siamo onesti, l'industria petrolifera rappresenta una delle fette maggiori dell'economia della Louisiana, non possiamo sputare nel piatto dove mangiamo, dobbiamo negoziare con la BP. Let's be honest, the oil and gas industry is one of the highest proportions of Louisiana's economy. We cannot bite the hand that feeds us, we have to negotiate the hand that feeds us. Abbiamo ai microfoni di America 24 Leonardo Maisano, corrispondente del Sole 24 Ore da Londra, che ha seguito le vicende della BP, ma dal punto di vista aziendale, Leonardo, è passato un anno, l'impressione che forse la BP possa aver pagato un costo più elevato di quel che avrebbe dovuto, qual è l'atmosfera? Il costo per la BP in realtà è ancora tutto da valutare, nel senso che il costo reale è questo di 40 miliardi di dollari, che sarà il, come dire, il prezzo globale per tutto quanto ha comportato la tragedia del Golfo del Messico. Ecco, però siamo passati, Leonardo, attraverso un po' di drammi, non sono stati pagati i dividendi. Se tu devi ripensare allora anche come era stata vissuta questa imposizione dell'amministrazione Obama, che sembrava un po' anti-business allora. Certamente è stata vissuta in chiave, come dire, di contrapposizione o di rinnovata tensione transatlantica, perché in fondo i rapporti anglo-americani ultimamente non sono più certamente quelli di tanti anni fa, e quindi questo è stato un ulteriore episodio. D'altra parte non si poteva neanche insistere eccessivamente sui diritti, per certi versi assolutamente sacrosanti, dell'azienda, perché comunque si era di fronte a un disastro ecologico enorme. Questo è stato, come dire, l'aspetto più complesso. Il problema vero si pone adesso, nel senso che bisognerà capire quale sarà il destino di BP. C'è una strategia in corso, la BP ha dovuto vendere, liquidare beni patrimoniali, sta cercando alleanze, e proprio sul fronte delle alleanze mi sembra che ci siano dei problemi, addirittura dei problemi drammatici, soprattutto per l'amministratore delegato, per Dudley. Sì, che ha fatto una scelta radicale, che ha, come dire, anche una dimensione, se vogliamo, dantesca o shakespeariana, dantesca nel senso che c'è una specie di contrappasso. Il suo uomo è stato l'amministratore delegato della joint venture TNK-BP, che è un pezzo importantissimo nel quadro e nel mosaico delle attività di BP nel mondo, e fu costretto 2 anni fa ad abbandonare la Russia perché i soci russi non erano soddisfatti di come lui gestiva l'azienda e erano andati decisamente per respicio, cioè quindi fu rinnovato il visto, ci furono ispezioni fiscali, fu messo nella condizione di non gestire l'azienda come avrebbe voluto, dovette letteralmente scappare. Poi il contenzioso si è in qualche misura ricomposto, però ha sorpreso tutti la decisione di qualche mese fa in cui BP, dopo aver fatto questa cura dimagrante massiccia vendendo attività nel mondo, ha deciso, per scommettere sul suo futuro, di tornare in Russia in modo molto importante, cioè con uno scambio azionario con Rosneft, che è la società pubblica che si occupa di petrolio, l'ex Yukos di Khodorkovsky per intendersi, che è stata nazionalizzata dal governo russo. Bene, hanno fatto uno scambio di partecipazioni Rosneft e BP per lo sfruttamento dei giacimenti dell'Artico. E questa, che deve essere una grande prospettiva per il futuro, rischia di diventare un problema enorme per Dadley, perché adesso si è creato un nuovo contenzioso con i soci russi da un lato, le autorità russe, proprietarie di Rosneft dall'altro, e BP rischia di trovarsi in mezzo. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Ricordate Jack White, uno dei due componenti degli Stripes, si erano separati. Ebbene, vi faccio ascoltare una canzone che è stata composta da Danger Mouse e da Daniele Luppi, un italiano. Questi due compositori hanno preparato un album ispirato agli spaghetti western dal titolo Rome, che uscirà il 16 maggio, di Jack White, Two Against One. To add your own fight to this dimension, they'll tell you that this ain't no free for all to see. There's only three. It's just you and me against me. I get the feeling that it's two against one. I'm already fighting me, so what's another one? The mirror is a trigger and your mouth's a gun. Lucky for me, I'm not the only one. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.